Mix 24 di Giovanni Minoli. Sta per cadere il muro tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa russa. La Santa Sede e il Patriarcato di Mosca hanno la gioia di annunciare che per grazia di Dio, Sua Santità Papa Francesco e Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia si incontreranno il 12 febbraio. Il loro incontro avrà luogo a Cuba. Un altro muro che cade, quello nel dialogo tra cattolici e ortodossi. L'incontro colma una distanza tra le chiese d'Oriente e Occidente, iniziata nel 1050, anno del grande scisma. Il faccia a faccia che si terrà all'aeroporto dell'Avana non è il frutto di spinte politiche. A dichiararlo è il portavoce della Chiesa Ortodossa Russa, Alexander Volkov. Ecco, dunque, a 1000 anni dallo scisma che nel 1054 ha diviso la Chiesa, il Papa incontrerà domani il Patriarca Ortodosso Kirill a Cuba. Un incontro fortemente voluto proprio da Papa Francesco, lungamente preparato, come abbiamo saputo. Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera, salve. Ecco, Franco, pochi giorni fa a Santa Marta tu hai intervistato Papa Francesco. Hai capito perché proprio Cuba? Ma ho capito proprio Cuba perché credo che sia stata una richiesta del Patriarca di tutte le Russie, il quale ha anche motivato questa scelta sostenendo che l'Europa era stato il terreno di divisione. Questo naturalmente mi sembra una risposta un pochino offensiva nei confronti dell'Europa, ma d'altronde riflette forse anche lo spostamento del baricentro del cattolicesimo e del cristianesimo verso l'America Latina. Cioè un territorio neutro, oppure soprattutto un luogo simbolo di un incontro anche tra Russia, Sud America e anche la pacificazione con gli Stati Uniti, cioè si è spostato il baricentro e qui se ne dà conto in qualche modo. Sì, se ne dà conto in un modo abbastanza clamoroso, perché se pensiamo che Cuba era una delle patrie residue del comunismo, appunto, oggi diventa la centrale della riconciliazione della pace epocale, certo. Ecco, andiamo alle ragioni di questo scisma, erano più politiche o religiose? Ma credo che fossero ragioni insieme religiose e di competizione tra due realtà che erano in realtà tutte e due occidentali, quindi rientrano più nella divisione dell'Europa che non in una vera divisione dal punto spirituale di vista religioso e teologico. Sì. Ecco, comunque tutti i papi, gli ultimi soprattutto, hanno provato a realizzare questo incontro, sia Giovanni Paolo II che Ratzinger, però Bergoglio ci è riuscito, perché secondo te? Ma secondo me per un paio di motivi, almeno a mio avviso, che rapidamente dico. Il primo è che evidentemente c'era un interesse forte anche da parte della Chiesa Ortodossa e che nonostante quello che dice il Patriarca Kirill forse coincideva anche con alcuni interessi della Federazione Russa che attraverso questo in qualche modo vede una legittimazione anche da parte di Vladimir Putin. Ecco, dimmi. La seconda è questa, che credo che il fatto che questo sia un papa latinoamericano ed è un papa australe, sudista, quindi che non può essere ascritto in modo automatico allo schieramento occidentale, abbia forse facilitato il ruolo di mediazione neutrale. Certo, ecco, comunque che tra la Russia ortodossa di Putin e Papa Bergoglio ci fosse un feeling crescente, è chiaro anche da quando, ormai 2 anni fa, si sono ritrovati a opporsi da quello che sembrava un imminente, immediato bombardamento sulla Siria da parte degli Stati Uniti. Il Papa indicendo una veglia di preghiera in Vaticano, Putin scrivendo una lettera al New York Times direttamente agli americani. Questo è il testo di quella lettera, risentiamolo. Ho lavorato a lungo con il presidente Obama e ho con lui una relazione personale improntata su una crescente fiducia. È una cosa che apprezzo. Ho seguito il suo discorso alla nazione e vorrei esprimere tutta la mia delusione per il suo passaggio sull'eccezionalismo americano, quando lui ha affermato che la politica americana deve essere all'insegna della diversità, perché quello che ci rende diversi è quello che rende l'America straordinaria. È molto pericoloso incoraggiare le persone a sentirsi straordinarie, qualsiasi sia la ragione per cui questo viene detto. Ci sono paesi grandi e paesi piccoli, paesi ricchi e paesi poveri, paesi che hanno una lunga tradizione democratica e paesi che stanno ancora cercando la loro strada verso la democrazia. Le politiche sono diverse, noi tutti siamo diversi. Ma quando chiediamo la benedizione di Dio, non dobbiamo dimenticarci che Dio ci ha creati tutti uguali. Beh, una lettera che è risentita adesso, effettivamente, come dire, ha dentro di sé molti elementi che spiegano questo incontro. Sì, spiegano questo incontro perché in realtà il Papa ha visto nella Russia ortodossa uno dei baluardi della cristianità anche rispetto al mondo islamico e soprattutto infatti, al fondamentalismo. Esattamente. Quindi oggi il Papa, come nel 2013, nel settembre, la lettera a cui tu hai giustamente fatto riferimento, vedeva in Putin la chiave per la difesa delle minoranze cristiane in Siria, dove l'Occidente purtroppo è meno presente rispetto ad alcuni tra l'altro anni fa. Tra l'altro una cosa poco nota è che Putin è battezzato, cioè è stato battezzato di nascosto dalla madre di Putin, ce lo rivela San Giuliano nel suo libro Putin. Sentiamo il passaggio. Putin si dichiara un credente, un osservante, fu battezzato segretamente dalla madre e dopo un disastro nella sua casa di campagna, nella sua dacia, ha avuto un attimo di un momento profondo di riconversione. Qualche anno fa abbandonò la campagna elettorale per recarsi nei monasteri e nei luoghi simbolo dell'ortodossia russa. Ecco, questo è un elemento in più che si aggiunge, no? Nelle ragioni di questo incontro, perché il rapporto tra la Chiesa russa e Putin è fortissimo. Beh, ma pensa Giovanni ad esempio a tutta la strategia di recupero di tutte le cattedrali ortodosse, non solo in Europa ma in tutto il mondo, che la Federazione Russa sta facendo, da Cuba a Bari ad altri luoghi. Quindi effettivamente per loro l'ortodossia, anche se gli ortodossi sono imbarazzati su questo, di fatto è la religione di Stato russa. Esattamente. Questo è un elemento molto importante. E quindi l'incontro a Cuba è anche, come dire, una conseguenza naturale di questa convergenza politica. Lo è, anche se la Chiesa ortodossa tende a rimarcare il fatto di essere autonoma dal Cremlino. Naturalmente. Ecco, ma naturalmente è un'autonomia che però non vuol dire che non ci sia una fortissima sintonia. Certo. E i cambiamenti della geopolitica, insomma, come ha detto il Papa fin dall'inizio del suo pontificato, arrivano dai paesi della fine del mondo, che stanno alla fine del mondo. Sì, secondo me quello che si vede è quello che dicevi tu, con una strategia del Papa che mi pare voglia togliere di mezzo tutti i detriti della guerra fredda, perché Cuba è uno degli ultimi detriti della guerra fredda. Il Papa la trasforma da capitale di un comunismo morente, declinante, con un disastro economico, a capitale di qualcosa di diverso, che poi, se ci pensiamo bene, sfida anche in qualche modo gli Stati Uniti. Li sfida molto, e qui in qualche modo prende anche un testimone dall'ultimo Wojtyla. Sì, dall'ultimo Wojtyla, che aveva, sia per motivi di salute, sia perché era un uomo della guerra fredda, in fondo anche lui, aveva un limite oggettivo. E questo Papa non riconosce i confini della guerra fredda, non riconosce i paradigmi della guerra fredda, e se ci pensiamo va a Ciudad Juárez, che è al confine tra Messico e Stati Uniti, dove le tensioni con i migranti sono molto forti, e poi va a Cuba appunto per celebrare una riconciliazione religiosa storica che lega il cristianesimo occidentale a quello russo. Ecco Franco, un incontro di pace dopo 1000 anni di scontro significa anche in prospettiva probabilmente una qualche forma di riunificazione proprio delle chiese. Beh, certamente c'è un cristianesimo che tenta di ricucire tutti i legami che si erano rotti durante gli ultimi decenni, direi gli ultimi secoli. Che poi questo riesca, non so. Naturalmente, però ecco, è un primo passo rivoluzionario, diciamo fra virgolette, da un certo punto di vista, molto creativo. Sullo sfondo mi pare che ci sia anche, l'hai detto tu prima, ci sia anche il rapporto tra la cristianità e l'Islam. Insomma, questa unità può essere un preludio a un confronto con capi religiosi islamici per isolare la violenza jihadista, è possibile anche questo, no? Beh, certo, il tentativo sarà questo, anche se più con gli sciiti che con i sunniti, perché con i sunniti non si sa bene come acchiapparlo. È molto più difficile. E quindi per questo c'è questo rapporto privilegiato con l'Iran. Esatto, e poi anche per arginare i massacri dei cristiani, che sono sempre più evidenti, spietati, e violenti, certo, e spietati, no? Sì, credo che in realtà le comunità cristiane del Medio Oriente siano sull'orlo dell'estinzione, tant'è vero che si parla certo. di sindrome dei panda. In realtà i panda stanno sopravvivendo, i cristiani in Medio Oriente no. un po' di meno. Ecco, ecco. Giovanni Paolo II ha contribuito, l'abbiamo detto, a far cadere il comunismo. Ecco, Papa Francesco, che obiettivo ha, secondo te, di fondo, la Cina? Certamente la Cina è uno degli obiettivi, ma intanto, a mio avviso, vuole rendere chiaro che in America Latina il comunismo è morto. Mm. E quando si dice che questo Papa è filo comunista, no, è un fatto molto di ignoranza, perché certo. questo è stato sempre un Papa fortemente anticomunista. Anche perché la sua teologia non era la teologia della liberazione, ma la teologia del pueblo, esattamente, che è tutt'altro. Che era esattamente la versione argentina, interclassista e anticomunista della teologia della liberazione. Cioè, quindi, un po' democristiano, diciamo, se vogliamo, diciamo, tradurlo così, in politica. Democristiano, gli argentini direbbero peronista, però noi diremmo esatto, democristiano esatto. con la nostra ottica italiana. Comunque, di fatto il baricentro del mondo si sta puntando a est e il prossimo passo di Bergoglio sarà la Cina. Beh, io credo che lui ci stia provando molto, lo sta dicendo, ha fatto questo messaggio, questa intervista con Asia Times, in cui appunto ha aperto questo nuovo spiraglio, ma certamente attraversare la grande muraglia sarà un po' più difficile che non certo. arrivare a Cuba. Però un gesuita prima di lui, come Matteo Ricci, c'era riuscito, quindi la speranza è l'ultima a morire. Ecco. Senti, un'ultima cosa, Ratzinger ha definito la Chiesa una minoranza creativa. Ecco, questo sembra un modo molto esplicito di manifestare questa creatività, o sbaglio? Sì, questo è, invece Francesco è un papa della maggioranza creativa, perché è il papa di un'America Latina dove ci sono circa mezzo miliardo di cattolici, esprime una chiesa che è stato detto cammina a testa in giù, nel senso che cammina con il mondo australe e che rivendica non il ruolo di minoranza creativa che rifletteva l'eurocentrismo del Papa esatto. Questo è un Papa che invece porta la potenza demografica anche dell'America Latina, dell'Africa. Certo, e quindi lui dice, alla domanda di Stalin quante truppe ha la Chiesa, ha il Papa, lui può rispondere un mezzo miliardo di persone. Esattamente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Enrico dalla Grecia ci dice: Francesco c'è riuscito perché ha scelto Cuba fuori dall'Europa, appunto quello che stavamo dicendo. L'ottica eurocentrica, Mario, è in crisi, insomma. Sì, tanto Kiril è appena partito da Mosca per andare a Cuba. Beh, sì, emerge chiaramente in questa puntata dedicata a questo tema, secondo me, centrale di questo periodo. Cioè, lo scenario geopolitico cambia. Totalmente. Mi veniva in mente, mentre Massimo Franco faceva le sue considerazioni, Oriente e Occidente. Sì. Genon, che sembrerebbe un po', no? Una cosa un po' paradossale. In realtà no, è proprio qui il discorso, lo spostamento dell'asse verso altri equilibri. Secondo me il Papa proverà a andare in Cina e sicuramente cercherà un interlocutore stabile nell'Islam, ecco, naturalmente. E questo mette fuori gioco la grande potenza, o comunque crea difficoltà, no, crea difficoltà verso agli Stati nei Uniti. Confronti degli Stati Uniti, sì, insomma, sì, sì. E lì ci saranno, che è un'altra sviluppi. Civiltà, se è ci un'altra pensiamo. Civiltà, quindi. E quindi poi i rischi di confronto li vedremo dopo. Intanto l'ambasciatore Sergio Romano, buongiorno, che è stato appunto ambasciatore a Mosca tra l'85 e l'89, è stato testimone della fine della guerra fredda. Lei che ricordo ha delle relazioni tra la politica e il mondo ortodosso in Russia in quel periodo? In quel periodo, tra l'altro, si celebrò qualcosa d'altro e di diverso, e forse per la Chiesa ortodossa molto più importante: il millenario della cristianità in Russia, che comincia per l'appunto dall'Ucraina, e addirittura allora il Papa, era Giovanni Paolo II, mandò una delegazione in cui c'era anche il Cardinale Martini. Quindi evidentemente la sensibilità del Papa Romano per un contatto, un accordo con la Chiesa ortodossa, ma Giovanni Paolo II fallì. Professor Romano, ma quanto ha pesato la mano diplomatica, secondo lei, di Putin in questa vicenda? Non so se se ne sia personalmente occupato. So che Putin, ma già era accaduto con Yeltsin, ha saputo in qualche modo ristabilire con la Chiesa ortodossa quel rapporto di gemellaggio Stato-Chiesa che rende l'una indispensabile all'altro. Putin per certi aspetti è diventato quasi un capo dello Stato democristiano. Però adesso, ancora una volta, dopo l'alleanza del 2013 per impedire il bombardamento sulla Siria di Assad, Putin e Bergoglio si ritrovano sulla stessa linea. È un'affinità o sono convenienze reciproche? Ma non so se si possa dire veramente che sono sulla stessa linea. Ciascuno ha naturalmente i suoi obiettivi e Bergoglio spera di ritrovare un rapporto con la Chiesa ortodossa che risponde, credo, come le dicevo, alle aspirazioni di quasi tutti i papi che lo hanno preceduto. Ecco, ma questo papa nella sua azione geopolitica sembra però molto innovatore. Innovatore sì, ma nel senso che non si lascia distrarre da un vecchio pregiudizio politico. Lo abbiamo visto nel caso del rapporto con Cuba, quando fu il mediatore efficace della ripresa dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti. In altre parole, non si lascia distrarre, ma guardi che questo è un problema, e soprattutto il suo aspetto latinoamericano. Esattamente, nella lotta al terrorismo le intenzioni del Papa, della Russia da una parte e dall'altra parte dell'Iran sciita sembrano convergere in qualche modo. Io non sono convinto che vi sia, come dire, una connotazione prevalentemente politica nel rapporto che si va a instaurare fra le due chiese. Io credo che lui parte semplicemente da una esigenza fortemente sentita dalla persona, di carattere puramente ecclesiastico. Quindi lei non crede che ci sia una strategia che vede convergere Vaticano, Russia ortodossa e Iran, con l'Occidente anglo-americano un po' nell'angolo, tutto sommato? No, non lo credo. No. Credo che sotto il profilo geopolitico le conseguenze di questo ravvicinamento, se il ravvicinamento ci sarà, siano piuttosto modeste. Sì. Quando ho detto ravvicinamento, se ci sarà, è perché forse non teniamo sufficientemente conto di quella che è stata la ragione fondamentale del rapporto difficile che esistente fra le due chiese, che è quello del primato del Vescovo di Roma. Certo. La Chiesa ortodossa probabilmente è molto felice di avere un rapporto migliore con la Chiesa cattolica. Gli screzi all'interno di una grande comunità religiosa finiscono per incidere sulla sua generale credibilità. Se due grandi chiese che si professano ugualmente cristiane litigano, certo, naturalmente, i fedeli a questo punto finiscono. Vabbè, non credo, però infatti questo naturalmente porta a un superamento. Il Papa stesso si è presentato come Vescovo di Roma all'inizio del suo papato, probabilmente proprio avendo un obiettivo strategico nel rapporto col mondo ortodosso. Ecco, lei non vede un obiettivo finale del Papa quello dello sbarco a Pechino sulle orme di padre Matteo Ricci, gesuita anche lui? Ma questo è un altro sogno della Chiesa romana, ma è un sogno casomai parallelo. Le due questioni sono profondamente diverse. A Pechino il Papa ha a che fare con una sorta di problema inglese. Intendo che quando Enrico VIII a un certo punto decise che sarebbe stato lui il capo della Chiesa cattolica in Inghilterra, sì, e non avrebbe accettato che lo fosse il Papa, ebbene qualcosa del genere sta accadendo a Pechino, perché Pechino ha creato la Chiesa nazionale. Sì. Anche se accetta adesso di nominare i vescovi in accordo con Roma. Ma nominare i vescovi in accordo con Roma significa pur sempre dire, non esplicitamente, dobbiamo essere d'accordo, e finché non sono d'accordo io non siamo d'accordo. Senta, ma lei, per chiudere, non pensa che questa crisi globale porterà a equilibri diversi sul fronte geopolitico generale, proprio anche grazie a questo intreccio di rapporti fra le diverse religioni, cioè le diversi rami della stessa religione, diciamo? Ma devo dire che le ragioni per andare d'accordo fra il mondo cristiano ortodosso e il mondo cattolico sono tali e tante che anche quando litigavano alla fine una certa collaborazione c'era. Se stiamo parlando di geopolitica religiosa, sì, però il problema è l'Islam. Appunto, nel triangolo costruito dalla Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa e l'Iran sciita, non c'è un nucleo forte di, come dire, di strumenti per la lotta all'Islam radicale? Vede, io non sono... Non lo vedo. Non riesco a vederlo, perché non credo che questo rapporto più intimo che probabilmente si va a stringere fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa cambierà il rapporto che ciascuna delle due chiese ha avuto con l'Islam. Cioè il massacro dei cristiani porta a un ravvicinamento, diciamo, fra le varie componenti. Ma anzitutto, se parliamo di rapporti con l'Islam, la Chiesa Ortodossa è infinitamente più qualificata sì, per, come dire, per presentarsi come esperta del problema, certo, sia perché gli ortodossi nel Medio Oriente sono molto più importanti di quanto non siano i cattolici, certo, romani, e sia perché la Russia, stiamo parlando della Chiesa Ortodossa russa naturalmente, certo, la Russia ha grosso modo 25 milioni di islamici all'interno delle sue frontiere. Esatto. Senta, ma lei dà un significato, per chiudere, un significato particolare al fatto che l'incontro si svolge a Cuba? Ah, questo è molto divertente, devo dire. Ma solo sì, divertente o anche interessante? No, solo divertente, devo dire, perché credo che ci sia stata molta casualità e soprattutto molta spregiudicatezza da parte di Francesco, ma questo lo sapevamo, che la persona ha una sua particolare spregiudicatezza. Ma ripeto, attenzione, stiamo tutti parlando di questo come se il fatto che ci sia un incontro significhi che il problema per metà è risolto. No, però non c'era mai stato. No, d'accordo, non c'era mai stato, ma il problema del primato del Vescovo di Roma è un problema che prima o dopo dovrà essere risolto. E non potrà essere risolto secondo i criteri canonici della Chiesa romana, che sono quelli di mantenere il concetto del primato. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Per fortuna, dice Egno da Bergamo, c'è Sergio Romano che è più realista, meno complottista, ma nessuno racconta complotti, raccontiamo angolature diverse, sensibilità diverse di pensiero rispetto a un evento storico, perché evento storico resta. Accidenti, infatti sono sorpreso di come, devo dire, i giornali oggi abbiano, alla vigilia, non l'hanno affrontato bene. Ma perché secondo me è uno di quei temi che sta sotto traccia nella storia, sì, e che esploderà all'improvviso i suoi risultati. Era da raccontare. Poi sai, sotto questa cosa qua c'è un'altra, sotto la cenere cova sempre qualcosa. In questo caso che cosa c'è? La guerra. Certo. Perché questi equilibri che si spostano, questi equilibri geopolitici che si spostano, che comunque in qualche modo cambiano gli assetti, poi per ripristinare gli assetti la tentazione delle guerre è sempre fortissima. Poi i papi comunque che piacciono o meno, sono delle forze transnazionali, sono i leader di forze transnazionali che cambiano le cose. E qui si pensate parla di a cosa chiese, fece addirittura, esatto, non solo di un papa. Di chiese, di quindi chiese, possiamo immaginare. Più. Pensate a cosa fece Wojtyla, no? Fu una forza rivoluzionaria incredibile. Nella caduta del comunismo, lo disse Gorbaciov, sì, Huntington, senza di lui. Huntington, quello dello scontro delle civiltà, molto citato e poco letto, scrisse un libro precedentemente molto interessante sulle forze transnazionali rivoluzionarie. C'è tutto un capitolo dedicato all'azione di Wojtyla, non solo in Europa ma anche in Sud America. E qua non è una questione solo teologica o religiosa, è una questione puramente... È la storia che si muove, sicuramente politica. È la storia che si muove. Politica. E noi, politica appunto, la storia che si muove. Adesso raccontiamo dopo la pubblicità un'altra storia, una storia diversa, la storia di Beppe Grillo, del Grillo comico e artista, che proprio in questi giorni è tornato in teatro, subito dopo la pubblicità.